Web. Incursioni nell'arte e nella letteratura. Non vi piace la trap? Magari anche per questioni generazionali non siete particolarmente fans di Young Signorino e preferite il cantautorato classico? Beh, sappiate che anche oggi, in un mondo dominato dal rap e dai suoi derivati, esiste un panorama cantautorale molto attivo, anche se, diciamo così, nel sottobosco. In particolare Bologna è molto fiorente da questo punto di vista. Ci sono cantautori che operano già da diversi anni, magari non con grandissima popolarità, però il cui lavoro va sicuramente tenuto d'occhio, soprattutto per chi appunto ama la canzone d'autore classica e sente un po' la mancanza di questa cosa oggi. Beh, questa mancanza non esiste, è soltanto che bisogna un po' andarla a cercare questa musica, seguire i concerti, che ne so, di Roberta Giallo, per dire un nome, o di Andrea Lorenzoni o di Giulia Olivari. Fra l'altro sono molte le ragazze che si dedicano alla canzone d'autore, questo è molto interessante e molto bello. Insomma, per rendersene conto basta anche soltanto tenere d'occhio la programmazione di un piccolo teatro nel centro di Bologna, che è il Teatro Navile, che è in via Marescalchi, che è una piccola traversa di via D'Azeglio. Nel sotterraneo, diciamo, c'è questo piccolo teatro, un gioiellino, era il teatro preferito da Lucio Dalla, che poi in realtà abitava a 20 metri di distanza. Insomma, il Teatro del Navile da tempo dà spazio alla canzone d'autore bolognese, con delle serate intitolate Cuore di Vinile, un po' orchestrate, dirette da un altro cantautore storico del sottobosco bolognese come Marcello Romeo, che è uno che è già in giro da decine di anni facendo le sue canzoni. Ecco, dicevo, soltanto sabato scorso al Teatro del Navile, con una manifestazione che si chiamava Una città per cantare, si sono esibiti personaggi come Aldo Di Gennaro, Uberto Sansovini, Chiara Vincoletto, Matteo Bortolotti, Davide Pagnini, Luca Bruno, Toby Mann, Jenny Gandolfi, Fabri Roma, Alessandro Baro, Luca Bonacchi, Joe Gasdia, Gianni Baroncini. Insomma, probabilmente sono nomi che non avete mai sentito, io spero di sì in realtà, ma è per dire che esiste un sacco di gente che fa questo tipo di musica e non si occupa di rap, e credo che la cosa interessi se non vi piace il rap. Questo poi in realtà era un concorso, e devo dire che sono moltissimi i concorsi dedicati alla canzone d'autore. Gli stessi redattori di Webull hanno spesso l'occasione di essere in giuria in questo tipo di concorsi, ed essendo questi concorsi molto affollati, finiscono per rappresentare l'esempio di un panorama cantautorale che effettivamente esiste. Webull cerca di dare sempre spazio, tutte le volte che se ne offre l'occasione, a questi personaggi. Sono già uscite interviste, che ne so, a Giulio Olivari per esempio, o a Daniele Farotti, che in realtà come cantautore è decisamente atipico, ma che ha pubblicato recentemente un album bellissimo come English Aphasia, e poi sta per uscirne una ad Andrea Lorenzoni, che ha appena pubblicato un bellissimo album intitolato Senza Fiori, e che è un personaggio piuttosto interessante, perché lui, oltre a fare l'insegnante coi bambini, pubblica anche libri di poesie, e quindi un artista da tenere d'occhio. E poi, voglio dire, chiunque faccia questo tipo di cose, ma chiunque faccia musica a Bologna e voglia un attimo farlo sapere, non ha che da contattarci, perché noi siamo sempre alla ricerca di personaggi che facciano qualcosa di creativo a Bologna per dare loro spazio. Ma insomma, voglio dire che un panorama cantautorale a Bologna esiste, e credo che sia molto giusto tenerlo d'occhio, perché credo che spesso riservi anche delle belle sorprese, e di sicuro un buon modo per tenerlo d'occhio è tenere d'occhio www.webull.it.